sai, si può fare anche una modifica che se lo cambiano voi tu inserisci il canale e poi diventa normale. Sì. Penso che si possa fare, lo sai. Non lo so, non lo saprei. Oh, è bello perché c'è FM, AM, tutto qua, qua. Poi tutto illuminato di notte, se no c'è un sito qua di illuminato, c'è tutti i tasti illuminati. Chiappa. Tu lo sai benissimo che adesso ci sono anche gli apparecchi che sono a codici. Se vuoi tu diventa normale, se sei veloce, abile, diventa normale. Nessuno. E non si è mai ottenuto di capitare così di blocco di colpo e già vai. Come quello che sta correndo, di capitare così di blocco di colpo e io l'altro giorno dal quadrante c'era il posto di blocco, l'ho visto da lontano, in moto, tipo mi ha sorpreso, stavo andando tranquillo, mi ha sorpassato, ho visto l'hanno fermato, si stavano infilando i giubbotti, li ho visti, e tu che mi ha sorpassato, un parte in mano, ma con i giubbotti si aveva infilato, l'avevo in mano. Cappa. No, ma chi c'è? No, ma quello lì già si possono... Cioè, bisogna stare un pochettino attento, ma non gliene frega niente che ti ferma così. A canale appunti sono altre persone che noi già sappiamo, ma chi si cucina le comprendere manco una. Una volta mi ha fermato l'anticrisi, ho comprato i documenti, poi ho visto il baracchino e ho detto, ma c'è la radio in macchina, tu sì, e cosa la usate? E ho detto, parliamo tra di noi, poi anche in calamità le usano, eccetera, eccetera. Ho detto, no, sì, bene, mi piacerebbe averlo anche a me. Devo avere i documenti? No, non c'è bisogno, mi ha mandato via. Avanti un break, Adriano, buonasera. Oh, ciao, mi sentite tutti quanti? Cosa volevo fare una chiamata? Vai, Adriano, fai. Antonello, Principe Azzurro, 17. Io sono qua, per i controlli. Fate hobbies. Niente, scusate l'interruzione, riprendi Gianni, buonasera. Minchia, anzi, buonasera 10 volte, questo non sapete poi se sentirti. Ciao Adriano, mi sentite anche a te dopo tardi, ma adesso d'estate poca gente è mudola, sai come uno preferisce ci sia una freschetta. Ma buonasera anche a te Adriano, se vuoi restare non c'è problema, lo sai che puoi stare tranquillamente. Hai cambiato l'antenna? Oh, Gianni, lascia perdere che stiamo lavorando 12 ore al giorno, altro che antenna, c'è altro. Davvero, vabbè, meglio così da ci guadagna di più. Si guadagna e poi l'antenna verrà al fresco. L'antenna verrà al fresco. Dai, riprendete, scusate, un altro appuntamento, mi sono arrivati 4 sms, ho telefonato, ho speso soldi, andava, mi è toccato a fare una calata della 27 veloce per dare assistenza qua su questa frequenza, mi sembra che siamo tutti quanti un po' qua, ancora qua. Là. Magari sarà arrivato, non lo so, non ho sentito né a Stefano né a Antonello che l'ha visitata. Magari stanno arrivando, è già verifica Adriano, di pazienza. No Gianni, è già telefonato, addirittura nessuno sapeva niente, non ho capito chi è che ha mandato gli sms, nessuno sapeva niente. No, aspetta, veramente il diretto interessato che aveva problemi all'apparato, addirittura a Olbia, che fa un principio azzurro. Sono riuscito a ricacciare Antonello, che è lui che mi ha mandato gli sms a ripetizione, non mi ha appuntamento alle 8 su questo canale. No, su questo canale, su 14. Dai, vi lascio le vostre questo è un... Non fammi campare un attimino, scusami Andrea se ti blocco un attimo, come fa arrivare da Urbia qua? Ha un apparecchio della 26. No, infatti ho telefonato a Principe per avere una conferma appuntamento sulla 27 per il controllo. Lui ha detto non sapeva niente, no, non poteva fare un controllo. Ma perché l'altro giorno io sono arrivato, ma c'è la propagazione, mi ha sentito Domenico dal campo, non era al centro di Olbetta che mi ha sentito. Aspetta, stiamo facendo un po' di ping pong. No, nel senso che il Principe ha dei problemi col suo apparato e voleva un'assistenza qua in radio, non fare le prove di potenza, un'assistenza qua in radio, però l'appuntamento non l'ha preso un'altra persona. Questo è un casino, vabbè, non ci ho preso da comunque, già lo stesso. Andare, Antonio riprendi, Principe se vuoi restare qua non c'è problema, avanti Antonio. No, io ho capito perfettamente cosa voleva dire. Se ha dei problemi deve cercare di aiutarlo per risolverle. Comunque, dopo tanto tempo, ci siamo. Ti ho risentito, non me lo dimentico mai, la modulazione. Oh, sono mia. Se non chi ha peccato, Antu, lascia perdere. Ciao, Antu. Buonasera. Perché ormai sono diversi mesi che non entro il 27. Buonasera. Buonasera. Perché la chiavica? Sì, ma... No, non ce la dimentichiamo mai, non ti preoccupare. Ci ricordiamo sempre. Infatti, come ti ho sentito, vuoi mio Adriano? Adriano, se ti interessa, stanno vengono... Ma un'antenna direttiva e una mantova tubo rara che si sta trasferendo. Gianni, le antenne io me le faccio da solo, non bisogna buttare soldi, se mi chiama. Cappa, beato te. Io te l'ho detto solo perché ne sapevo che tu sei con l'antenna capportata, che stai ancora uscendo, ma è ancora che si è capportata. No, comunque, grazie all'informazione. No, non c'è problema, perché l'hanno detto anche a me se mi interessava io. Sinceramente, l'antenna ce l'ho e non me la fatti nulla per il momento. Mai infatti. Non vale la pena. Ormai addirittura ho accatastate 3-5 ottavi. Due turbo e una 5, se vuoi solo il tempo, non servono una mazza perché insomma sono abituato a reale multibanda e tutto lì. Cazzo, la 5 Adriano non te ne pitti, la turbo almeno mi piace da buco. Poi Gianni, a saperte che con la 5 ho fatto dei DX, dei pitti, la migliore per la mia esperienza, piccolina NDX, ma proprio piccolina, ergo circa 300 QSL, la fate con la 5. Ma tu la 5 sì, è quello che ti decido io, la turbo non, io ce la fatto la 5 normale. Niente, fatelo dire da uno che ne conosce poco di antenne. Fatelo dire da uno che ne conosce poco di antenne. Tienete la 5, non andare su queste minchiate di turbo a parte che te ne cadono la pizza. Lo so, come mi ha dato delle grosse soddisfazioni di questa antenna? Non posso dire altro. Oggi anche io stavo sventiando, mi stavo guardando la QSL. L'ho fatto anche la domanda per fare la concessione vecchia, Adriano. La domanda per fare la concessione vecchia? Vabbè, in archivio ce l'abbiamo più o meno tutti quanti. La vecchia domanda, quella, bisognava mettere addirittura anche il sostituto, tutta la famiglia, eccetera, eccetera. Stiamo parlando degli anni 80, Però mi sono trovato, può essere dell'81, dell'83, quelle cose avevano cominciato subito a fare, perché prima io all'inizio ci avevo un portatile, quindi queste cose non ne facevo, quindi ci sono molto prima. Oh signor, Antonio, riprendi, se la riprenda lei ingegnere, Antonio. Chiappa. Vabbè. No, comunque c'è buona la manta da 5, chiaro. Se la 1 e la 5 sono ottime, solo che non ne vogliono più fabbricare, per produzione. Ma ancora qualcosa già si trova. Qualche avanzo in magazzino, dire a Natalino cosa abbiamo girato per trovare la sua. Cappa, vabbè. Alla fine sei costretto a pigliarle. Sì, ma già si trova qualcosettina ancora. Purtroppo sono fuori produzione e verrebbe qua. Sì, ma c'è un motivo, perché non c'è richiesta e quindi non le fabbricano più. Non ha senso produrre. Ma se ne produce a un certo punto, se, o te la ricicli, o te la fai semplicemente, ti prendi le misure, ti prendi il PC, te la calcoli e te la fai uguale, stai lì a regalargli 120 euro, ma va la via, diciamo, per due tubi di... va. Certo, vabbè, non tutti ci riescono a fabbricarsela, la comprano e basta, via. Però già è buono, già l'antenna che ti dura anche, non è che ti delude, ti dura nel tempo. Adesso la facendo la turbo e buco. Io come l'antenna da testa, solo che non l'ho ancora montata, io ho comprato la cosa a ringo. Va bene. Ancora non l'ho montata, però la buona antenna va alla grande. Quando la piazzerò sono sicuro che non mi delude. Guardate che nessuno faceva sbagliare a prendersi la famosa turbo, si marcisce il piattellino di sotto, il piattellino che tiene il radiale, si marcisce il radiale, non fanno più contatto elettrico, la butti subito al cesso. Non lo so, ma già esci sempre via, ma la zucca, pure si fa il radiale, già funziona sempre. Ma comunque, ma... Allora, quello di quella che si fa radiare, ma come sbaglio. Posso dire una parolaccia, paraculo hai fatto bene. Fatta, quando la monterò, almeno non ho il problema del radiale, senza. La lingua è così, c'è solo l'aspirare e basta. Beh, se tu sei appena, se te ne intendi appena appena di antenne, la ringola puoi fare diventare probabilmente una 5 ottavi, ma proprio aggiungendoci 50 cm di tubo in punta, uno stab in punta, 50 cm si diventa una 5 ottavi, 5 ottavi è un bel guadagno di 2 dB, sembrano pochi. E non sono tanto pochi, è quasi il doppio della potenza. Già te ne più della Mantova. Mantova è 2000 watt, chi se ne tiene 3. Sono sempre effettivi, penso, no? Ma penso che vada bene, che aspetta. Ricordo io, se sono sicuro che se la monto, a me mi fa troppo bene. Solo che ho quel problema là. In futuro si potrebbe montare, dai. Anto, guarda se ti puoi prendere un po' la passione di sperimentare e avrai grosse soddisfazioni di 15 anni. Non metti direttamente lo stilo di una Mantova 5, buschi e via. No, vabbè, dai. Bisogna base proprio un supporto tecnico col PC per calcolare. Lo so. Sono cose belle da fare, ci vedete che addirittura tarava l'ombrello, ne mangiare un po' che cazzate prima, la rete del letto. Vabbè, dai, sinceramente Gianni, alla fine erano per i fittizi accordati. Vabbè, comunque ci ha sempre, mi ricordo di Montero che aveva fatto la rete. L'abbiamo fatto in tutte le cose. La soddisfazione è cosa tenere letto, per un sifone, come ho fatto io. Sono soddisfazione. Però non ricordi che stai usando un accordatore. Stai accordando un pezzo di ferro che teoricamente potrebbe radiare, però l'accordatore si è assorbito tutta la potenza. Guardi che ho misurato il campo e vedi che il guadagno è zero, ergo tanto vale metterci 4 onde. Con questo di accordatore io ho la KP1000, però non accorda bene, cioè praticamente tu sei uno e due di stazionari, schiacci il pulsante per accordare, vai a accordare, ti dà 1,3, 1,4, invece che di ridurre te ne aumenta. Il 1000? Era chiavica. Non si può fare qualcosa, Adriano. Prima di tutto devi vedere se può accordare. Ma comunque il 1000 è già noto, però questa è una puntata micidiale. Si può aggiungere addirittura una spira, se non hai grosse pretese di potenza, se non superi i 5 kW. Poi, ma fuori. Sì, se non superi i 5, si può aggiungere una spira e riesci a accordare. Ma è così dalla casa, perché mi sembra strano a non accordare, cavolo. Vabbè, io per dire 1,4, metto 1,4 stazionari, schiaccio, vado ad accordare e mi dà sempre di più. Cazzo così, invece che accordare ti aumenta le stazionari. Vabbè, quelli sono nati tutto male dalla fabbrica. Siamo arrivati che cambiando i cavi interi, mettendo dei più grossi, c'è anche risolvere il problema. No, è una spira in più. Che mi dispiace, perché mi piace con l'apparecchio. Stazionare le misure tranquillo, perché ho provato con altri rosbit e vanno bene. È solo l'accordatore, che è quello che ti può sempre servire. Allora, l'accordatore, diciamo che era il tondo, che salva un po' il portafoglio quando stai usando antenne e calate disadattate. Se non funziona è meglio che lo metti da parte, altrimenti 20 euro, 30 euro d'accordatore ti fottono 200 euro di finale. Dipende anche la potenza. A prescindere dalla potenza. Ma infatti non lo uso mai, io l'ho provato un paio di volte, ho visto che non andavo. Una volta che c'è l'antenna in corso, perché lui era, c'era l'acqua dentro la casa. Staccato il capo, siccome ci ho collegato sempre, no? Ho staccato il capo dall'antenna, mi ha gocciolato dentro casa. Effetto pelle, sì, è classico. Riprende a tu, un attimino di bianco, scusate. Chiaffa, allora vi dico già che era successa quella situazione là. E io ho dovuto cambiare tutto il cavo, ma ci avevo piazzato un mese nel cavo. Un mese, poi l'ho ricambiato, perché ho messo un cavo più buono e gli ho fatto quello che volevo fare io. Chiaffa. Comunque, Ehi, già sono... Mi stavo dicendo già. Comunque anche quello che ha preso Giuseppe sembrerebbe buono, Sì, sì, no, va bene come calca, va bene. Capo nuovo, non lo conosciamo. Noi l'abbiamo chiesto un capo del 58 e sarà durissimo. Questo qui c'è buono, e ha detto quello con la doppia calza. E mi ha dato durissimo. Ma io non intendevo quello, io intendevo quello col filomone centrale. Ecco la calza più grossa. Capo, no, io ci verrà lì. Che modula bene. No, già va bene, io pure. No, diciamo un modo nuovo, poi c'è sempre il rame mio all'interno, non è che sia... quello che conta è quello. So che con la doppia calza, Giovanni, è più capito. Pappa, no, è resistente anche quello lì. Sì, no, no, va bene, caspita. Io ho messo quello lo stesso, va benissimo, non c'è problema. Tanto quell'altro è troppo duro, oh, non mi piace a me. Ti muovo gli strumenti, io l'ho avuto qui l'altro, quello grosso. L'ho subito tolto, l'ho rimesso le 10:50 a casa di mamma, l'avevo provato, ma noi di azia, attaccava gli strumenti, si giravano perché era pesata. Tu hai avuto le RG8, mi sembra, vero? Le RG213. Ah, 213. Ed è buono. Cioè, magari per certe cose non va bene, ma comunque è un ottimo filo, cioè se riesci a tenere strumenti fissi è un ottimo filo. Sì, è ottimo anche il RG58, fregate. Addirittura adesso io non ho fatto come volevo fare, ma li volevo mettere, come ci si chiama, quel coso elettrico che sembra una molla, la barba. Li volevo mettere quello lì dall'inizio alla fine, vedevi si teneva il filo nuovo. Chiappa, oh sonno, cosa devo ripulire? Si chiama, boh, non me lo ricordo tu come si chiama. Ma è presente quello che da piccolo si va per suonare, boh, non me la metto. Vabbè, comunque. Già va bene così, già, io bravo qua. Quello che copre i fili elettrici, Antonio, che pare una molla, non ve le presenti? E pure ti ho capito la resistenza. Metti quello lì, no? Lì, lo metti, si da arrivare lì. Vedrai che il filo viene protetto, ho fatto male a non metterlo, se lo volevo comprare. Il filo viene protetto, capito, al 100%, non si rovinerà mai. Poi già ti ho capito quello che cosa stai dicendo, la guaina, dai, c'è tipo guaina. E ha un nome, ma non me lo ricordo come si chiama, vabbè. Comunque già c'è un capito, quello lì, sta di buono lì su, compri il filo con quello lì e vai alla grande. Sì, già lo credo, già. E vabbè, ma già va bene anche sotto nello scarico dell'acqua. Sì, bene, sì. Poi io come l'ho messo, se te lo faccio vedere un giorno come l'ho fatto, mi dirò che tu hai fatto la regola d'arte. Io non ho fatto toccare in terra il filo, perché magari devono fare lavori o cose del genere, da fastidio. Invece gli ho messo un'altra, come si chiama, un'altra staffa. Ho fatto passare legato tutta l'antenna, dopo l'ho fatto scendere nella staffa, dalla staffa l'ho fatto andare in alto e poi scendere giù direttamente. No, non tocca in terra, capito? Appagato. Cosa vuoi fare? Anche lì da poi sono riusciti a controllarmi, lì, capito? C'è un bel di gente che si fa i cacchi suoi. E adesso è controllato. Adesso diciamo che va abbastanza bene, Non è controllato, adesso non c'è più né il capocondominio, né tutti quelli che rompevano le pare, sono tutti nuovi condomini. A bisogno non usarne ne manco. Papà, meno male se ne sono andate, dici. sto sempre già in Bendeso. Sì. Adesso non seguici come si chiama quello, come si chiama l'altro, ma insomma. Io conoscevo i vecchi, tutti per nome, avevamo confidenza, adesso si saluti, ma non li conosci. Già, è meglio così. No, ma gli altri erano, a parte qualcuno che era geometra, che cosa, che si vedevano un po' carino, un po' di più di là, se no, che erano di chi si puliva il puntino sulla Ise. Certo, ma meglio così, guarda, meglio così, a manco di... magari anche gente tranquilla, no? È venuto un avvocato a Bittari, uno che lavora alla nord, come si dice, Sardegna Nord, e quelli che scaricano la roba al banco di Sardegna. Che appena ho capito, cioè, ho fuori la palla, meglio, meglio gente seria, dai. Alla Sarda Nord, dove mi stava, non mi veniva il nome. No, gente abbastanza tranquilla fino adesso. Io la voglia. Ma l'importante è che non ti creano mai problemi. No, poi se ne sono andati chi si proprio che pubblicava, le invasioni, le cassine. Poi se ne sono tutti andati chi si. Certo, ma come? Vedi chi ci sono? Una rottura di scatto, soprattutto uno in particolare, è meglio che se ne sia andato da lì, anche per il bene vostro. Era un grido, ma secondo me è finito. Poi almeno male, almeno siete più tranquilli voi, siete più tranquilli tutti. Non l'ha giubito, a Zemezzino, a Robar, forse chi sono parati, lo sa. E deve rubare di un quadrato. Ehi, dammi la vittoria. Dammi che fuori dalle spalle. Affatti al casino io, per vado, puro. Puro Lugane già stato abbigliato, lo sai. Ah, si è stato abbigliato Lugane. Schiappa. Se fa la bravo non succede niente. Se fa la cattivo, già lo sai. Dopo il vittino mi sono lasciato. E no. Sì, dopo già me ne ha sapito di Sardi, non è che sono questi truffitti, no, già ne hanno tutti. Tata, oggi se ne minimo se ne è andato, ma non tanto che tu la divide, ma molto, molto, molto prima. Già lo so, e infatti lì non ci vanno a abitare queste persone qua, non ci vanno lì a abitare. Gappa, gappa. Chi sei prepotente, è così, devi anche comportarti bene con la gente. Non è che devi essere sempre così, no, perché se tu non ti comporti bene, succede quello che succede. Insomma, anche per locale lì ci ha fatto rischiare. Gappa. Ha fatto rischiare a te, già non sai come te, no, dato come se già non ha tutti niente, sai come, cioè, dopo che hai saliente non ne ha tutti più nulla, succede quello che succede. Se ti poni la bomba invece che puli fuoco. Dopo di tutto ti puoi aspettare, di tutto già. Troppo, se c'è una ramenta del genere che rompo le palle dalla mattina alla sera, ti puoi aspettare di tutto, io ho varianti mancanti che non ne ha tutti nulla a me, cioè non gliene frega niente, cioè alla fine se ti rompe le scatole c'è dubbio di pignè. L'importante è che tieni tu, da quelli là che non ne ha tutti nulla. Giocavo in una testa alta, pegando un basso mi saluta, di tutto quanto, mi fa mafabità, tranquillo. Rispetto, ci vuole rispetto, cioè tu non puoi trattare, anche se sono a quella maniera, lui non puoi trattarlo come la bestia, ci vuole un rispetto, vero? Invece lui il rispetto non li aveva, e per quello che cioè, anche nella sua carriera, eccetera, eccetera, mi evadi anche Santorato, perché non aveva rispetto. Se lui è stato una persona proprio rispettosa, non era capace per quelle sfide che ha fatto, lui era stato un signore, ma sicuramente è guasto dalla nascita. Cos'è? Che dice? Quando è andato in pensione si doveva dimenticare che ci aveva fatto prima e doveva andare a stare tranquillo, invece ha continuato a farlo là fuori. Ma anche lì si hanno rotto le palle a tutti, non è che non si sa mai se sapeva. Ma per lui se ne ha cercato lui l'errogna, certo non gli hanno procurato gli altri. Invece di trattare la gente come bestie, li trattava bene, vorrei che non gli avrebbero fatto altro, l'avrebbero con rispetto. E vabbè, quella gente lì è sempre un po' recidiva nei confronti di chi fa quel lavoro. Ma non va bene sulla parte. Io gliel'ho anche detto una volta, no, mio marito non chiama nessuno, ma sì, no, perché lui lo sa, ha tutto a che fare con tutta questa gente, non interna per niente. Poi ma tu bisogna il malunguro di pigliare, non interna nessuno. Ho conto se ti rompo le scatole di cui gli buoni la faccia, cioè si passa giù e da sommata con la faccia. Allora ti ripeta, a chi sai che non devi faccio, se ti hanno più di prima, un conto è farle sempre dispetti, cioè ti bisogna un po' sfuggito, ti bisogna un po' muro. Paga, ma è qui, il boom è grosso, quindi lo sai. Già lo so già, già le so le cose. Cioè, ci fate la biglia come te soggetto, come te riguardi. Invece, la luce è a te pagare per rispettare, pagare per rispettare la rispettà, anche l'usare chi per l'applicato e chi dà la ragione. Secondo me non se lo immaginano anche. Però perché tu mi dai rispetto, non è grato come te le bestie, sempre rompendo il cazzo, gnadì. Se ti hanno applicato, ti ha dato la faccia e via, non ti fa mettere più il piede o il resto. Allora lì c'è il rispetto, e tutto finisce lì, ma se tu fai gnadì, non andrà più bene. Non me la verità, sono educati, salutano, non posso dire niente, faccio altrettanto, perché sono una persona che cammina con la testa alta, per cui faccio finta di non sapere nulla, saluto tranquillo e via. Certo, ma se sa, loro lo vedi se ucciso, non è che si sa come, se tu vuoi rompere le balle, allora ti puoi, tutto di lui succede. Mi sicuri, uno si deve buttare su sigata a casa sua, tranquillo, capire un po' di va, uno, di casa di Ronnie, va anche sul 21. Che sì. Fantasma. Ma ragazzi, questa modulazione no. No. Benito sì. Ho fatto quadrato. No, non sei tu. Vabbè. La modulazione anche di Antonio. Antonio, come lo senti a Roberto? Io lo sento basso a Roberto. Ciao Roberto, non riesco a tirarlo pure, no? Sicuramente è giusto. Ciao, buona radio. Buonasera. Roberto. Buonasera. C'è Santiago, sì, la radio è tre, là. Ah, non sai, mi sono fatto delle belle pescate nella spiaggia davanti a te. E come facevo a vedermi di notte? Tu stavi nel mondo delle sogni. Sì, nella spiaggia hai visto dove c'è la vedetta, dove si mette la vedetta, appena più avanti. Ne ho tolto tre orate, ho tolto una razza, poi un bel sarago, insomma un pescato. Poi c'era un ragazzo che pescava vicino a me, lo stesso che era un sergente della brigata Sassa, e anche lui qualche cosa l'ha tolta fuori, meno di me, ma già l'ha tolta anche lui. hanno già, e bisogna andare in calata quando c'è un po' di calata di vento, bisogna saperlo come si va a pescare, se vai tutti i giorni quando c'è il mare piatto. Io per dire, mi era avanzata la scatoletta di vermi, sono andato e non ho preso nulla un giorno, ma la maggior parte sono andato tre volte ho preso, quella volta lì solo che sono andato, perché mi era avanzata questa scatola, ma c'era il mare piatto, non mangiava nulla, mangiavano solo le mormorette e basta. Ah, e una mormora bella grossa ho preso. Tanto l'ho ascoltato Roberto Pagani. Oh già, no, non riesco, non riesco a tirarlo fuori, è troppo basso. Mi avevo detto di tirarlo fuori, ma adesso no, non ci riesco più. E ha detto che non ti tira fuori, Robert, che sei troppo basso, che non riesci a capire le parole. Mamma Dio, va bene, segnale un po' basso, dovresti aiutare con qualche cosa. Io ho attaccato la stufa. Termosifone. Guarda, ma non mi sente già, e da me intendi che per platta nuova. Ti sente, ma basta adesso. Adriano, tu lo senti a Roberto Quadrato, ma tu direi, no, qua non l'avrei conosciuto mai. Solo col DSP, il DSP mi fa schifo, quindi lo uso poco, solo col DSP riesco a capire cosa dice. Ciao Roberto, probabilmente lui però mi ascolta, assolutamente non mi può ascoltare. Lì ha detto se lo ascolti, ha detto che ti ascolta col DSP e basta. Ok Roberto, allora siamo a pari condizioni, anch'io solo col DSP. Ci siamo io, Adriano. Bombolo. Basta così. Basta. Se poi c'è qualcuno all'ascolto e vuole uscire fuori, può anche uscire, non c'è problema. Vabbè, quest'anno sei più basso degli altri anni. Cosa hai fatto? Che antenna hai messo? Ma come come mi ascolti lì, Robè? Sempre basso. Un attimo, cambio orario. Adriano, modulare l'inizio di Viale Umberto, vai. Inizio di Viale Umberto, quella zona lì. E vabbè, lasciati dire così. Al Montesimo, è in quella zona lì. Robè, guarda che ti ascolto benissimo col DSP. Ponte Rosello, hai presente il Ponte Rosello? Ponte Rosello, io sono al Ponte di Rosello. Probabilmente lui non ascolta. Capito Robè, al ponte di Rosello, esempio. Beh, sta salendo, no? Ecco. E finisce il ponte Rosello. Non è, è forte, però nello stesso tempo è un po'. Non è chiara, capito? Si sente la potenza della radio ma lontana. Così è più chiara, così è anche più forte. Se ti vuoi fare un amico col microfono se vuoi mettere questo Galaxy. Il Galaxy sì. Beh, adesso già quella la radio, già compensa, non c'è molto segnale, ma la radio compensa, dai. Se comunque è un segnale sì. Che antenna hai messo? Ha detto vabbè. Ti dico una cosa, se ti tiri buono, una Turbo 2001, esci tre volte più forte. È normale, ma ne farà spicchio pubblico libero, immaginati tu. Vabbè. Io qua in tedesco proprio non ci parlo perché mi stanno proprio sul cavolo. Da quando hanno fatto quella canzone contro l'Italia, non li posso più vedere. Non hai sentito a 105 che l'ho fatto sentire la canzone contro l'Italia che hanno fatto prima che Giocassimo e perdessimo. Ci hanno fatto la canzone Italia in X. Avanti a tu. No, non arriva qua. Ma che cosa sta utilizzando? Antenna la mini Grand Prix. Oh, vedi, l'ho vista. E magari anche passa. No, già arriva. Se metti un po' di filtri e un po' di DSP si sente. Oh, approfitto del mic per salutarvi. Alle prossimine. Ciao Roberto, che non mi ascolta. Ciao Antonio e ciao Gianni. Marameo, alle prossime. Ciao Andrea, buonanotte, dai, avanti. Ciao Andrea, dai, buonanotte, ce la risentiamo domani. Alle prossime, dai, o quando coincide. Vabbè, Adriano ti ha salutato. Ciao Robert, solo con gli SP ti ascolto, ciao alle prossime. Cappa, ma non c'è per Paola, non è frequenza, probabilmente sta facendo altro. E tu Robert, felici? Sì, ma il bagnetto già te lo fai quando torni dal lavoro lì, no? Beh, io lo grido. Ehi, vabbè, una mini vacanza te la fai anche adesso, solo il fatto di stare oggi a mare, così. Comunque lì si pesca bene se trovi il mare adatto, il momento adatto si pesca bene. Poi deve essere la gente che non pesca dei lanci corti, probabilmente. Ma io dico una cosa, anche quel ragazzo che veniva ogni sera, quel ragazzo giovane, poi si è avvicinato a questo genovese, poi un'altra tipa che ci aveva il metal detector, cercava la roba nella sabbia, non l'hai mai vista? E dimmi Antonio. Ma adesso meglio mi sente Roberto lì, a Plaza Mona. Chiediglielo. Vabbè, come implementando i ghibi, non fammi da punta per chi non riesca a sentirlo. Però senti Antonio, senti più forte con questa apparita. Ma più forte mi sente. Detto che ti senti attratto. Forse più forte. Cosa ti stavo dicendo? Però Robè, si è avvicinato un tipo di Genova, un ragazzo che c'ha un figlio piccolo. Lo stavo pescando, si è fermato a chiedermi un po' di cose perché dice che lui è un video, come non va a mettere l'esca, questo e quell'altro che esca a mettere, eccetera, eccetera, eccetera. E poi è passato questa tipa col metal detector, ma dove sono capitato a... La cosa scherzi a parte. Ho detto scusi, ma ha perso qualche cosa? No, io cerco quello che perdono gli altri, mi ha detto. Già, ascolti, devo salutare, dai. Ce la risentiamo dopo domani, perché devo andare a fare una cosa. Dai, ce la risentiamo domani, dai. Vabbè, ciao. Avanti Robert. Ma mai vista quella tipa col metal detector che cerca nella sabbia le cose che perdo? Buonanotte a tutti. Buonanotte, cosa, Robert? Ehi, cosa mi posso ricordare? Sarà una settimana fa. L'uomo è una donna, insomma. Erano, sicuramente erano continentali. No, erano più grandi erano. Poi c'è questo che aveva 35 anni, che era di Genova, che te l'ho detto, che lui è stato tutta la sera parlando con me. Parla che ti conosce a me, 50 anni, infatti non riusciva a seguire le camere, perché lui parlando, che ha fatto una tirata allucinante, dove c'è qualche latta grossa, che te me l'ho persa perché stavo parlando con lui. Non me ne ha detto, con gli occhiali era magrolino, e mi ha detto che molte volte si mette a pescare dove c'è la curva prima della torretta, però non ha mai preso un pesciolino. Però bene, ci sentiamo, buonanotte, e tante cose belle, metti a pescare anche se con la canna, vedrai che farai affari. Morattine ne ho preso, la porzione 600-700 grammi, qualcuna ne ho preso, e le altre sui 400, però sono andato bene. Ciao, grazie. Ciao per pace. Ciao. Perché ti si allungano le orecchie? Ah! Che a fare la legge di buffo, ti si allungano le orecchie. E allora cosa faccio? Potevi entrare. No! Ti ha chiamato, avanti allora. Ho soltanto, ci ha detto che stava andando, ciao, buonanotte. Notte, per me.